Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo subito da come va Wall Street. È chiusa per il giorno, no, volevo creare un po' di terrore in regia, è chiusa per il giorno del ringraziamento, Thanksgiving, quindi oggi borse senza il riferimento dei mercati americani, ma guadagnano 0,5 punto percentuale Parigi, Francoforte più 0,80, Londra più 0,70, 1 punto percentuale rialzo invece di Milano, dove va bene Buzzi Unicem più 4,70, Mediaset più 3,60, Exor più 2,5 come Banco Popolare, Azimut più 2,30, Enel più 2 come Ferragamo e Atlantia e anche Saipem, Finmeccanica più 1,70, Diassor in più 1,6 come Unicredit e Tenaris, ma anche Fiat Industrial, negativa di pochissimo solo Autogrill. E di questo parleremo più avanti, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, oggi grande festa del tacchino, sì, scrive un ascoltatore, in America è un'espressione molto americana quella per dire quando non puoi chiedere le riforme a chi ne ha un vantaggio, per esempio la nostra casta politica, si dice non puoi chiedere al tacchino di anticipare il giorno del ringraziamento. Detto questo, ci occuperemo del tema ancora europeo. Non c'è nessun tipo di accordo in vista sul budget europeo, quello che poi deve decidere quanti soldi andranno ai singoli paesi su alcuni settori cruciali, l'agricoltura tutta finanziata dall'Europa e anche i fondi di coesione sociale, cioè quelli che dovrebbero avvicinare le aree più ricche alle aree più povere, quindi aiutare le aree più svantaggiate. La Gran Bretagna non ne vuole sapere di un budget che varrebbe, secondo la proposta, 1.080 euro per il bilancio 1.010 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e ha detto no. L'Italia ha minacciato di mettere il veto perché dal 2000 in poi noi versiamo più soldi di quanti non riceviamo, da quando l'Europa si è allargata ad est e quindi sono entrati paesi che avevano aree depresse e anche più della nostra, in alcuni casi anche più del nostro mezzogiorno. E quindi noi abbiamo avuto una riduzione della nostra quota per le nostre aree depresse. E l'Italia più o meno ha versato 14 miliardi e mezzo, ne ha ricevuti 9 e mezzo, quindi abbiamo un saldo negativo di 5 miliardi. Però insomma, nulla di fatto. Poi parleremo anche di produttività, perché l'accordo firmato oggi, ci sono commenti di vario genere dal ministro Passera, che chiede comunque che la CGIL ci ripensi, sostanzialmente dispiaciuto del no della CGIL, e concluderemo il programma con la presentazione del 17esimo, lo facciamo ogni anno, 17esimo rapporto del Centro Studi Einaudi, curato come ogni anno dall'economista Mario De Aglio, che va a tracciare tutti i temi di criticità ma anche qualche speranza in quello che è lo scenario soprattutto europeo. 349-238-6666 per i vostri sms. Abbiamo anche purtroppo altre notizie sulla crisi degli altri, o meglio su come i nostri soldi vengono sperperati. Io ricordo che il binario o il sentiero stretto, come avrebbero detto alcune volte i politici, è sempre quello: fare pagare le tasse a chi ne evade in grande quantità in primo luogo, ma a tutti poi, e allo stesso tempo smetterla di utilizzare i soldi pubblici come una mangiatoia, soprattutto in alcune strutture. Le regioni su questo sono state, in molti casi, non in tutti, ma una vera delusione rispetto a chi credeva a un principio federale per cui la regione avrebbe amministrato i soldi meglio dello Stato centrale. Non è vero niente in molte regioni. Per cui ridurre la spesa pubblica e far pagare tasse a tutti con l'obiettivo di far pagare meno tasse a chi le ha sempre pagate, quindi ridurre sto benedetto cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e avere un po' più di risorse da mettere per le imprese, per gli incentivi, per le agevolazioni, per chi fa ricerca, per chi assume, e anche un po' più di soldi in busta paga. Noi restiamo in questa linea che è per far pagare tasse a tutti e fare in modo che si sprechino sempre meno soldi nella pubblica amministrazione. Purtroppo, dicevo, anche oggi le notizie che abbiamo non vanno in questa direzione, e allora partiamo subito con le notizie in breve. Una buona notizia sembrerebbe arrivare dalla Cina. Sapete che la Cina, l'abbiamo raccontato in questi mesi, si era fermata parzialmente. La produzione industriale della Cina prosegue però in maniera positiva. I primi dati che sono usciti dal PMI, cioè l'indice, il Purchasing Managers Index, è quello che misura le attività e le indicazioni che arrivano dai responsabili degli acquisti delle grandi imprese, è tornato sopra i 50 punti. Sopra i 50 punti, o meglio, i 50 punti sono la soglia tra recessione, stagnazione e invece crescita economica. Veniamo all'Europa. La Repubblica di Cipro ha bisogno di prestiti per un ammontare di almeno 17 miliardi dai partner europei per il periodo 2012-2016. Lo ha reso noto il ministro delle finanze cipriota Vassos Charli. Dalla Grecia invece arriva una notizia che va a confermare l'avvitamento che è in atto in quel paese. Allora, lo ripeto perché poi ci sono sempre contestazioni. La Grecia deve fare i compiti a casa, ma nel momento in cui tu vedi che lo studente, con tutte le bocciature che gli stai dando, invece che studiare non va più a scuola, non si alza più dal letto, devi trovare un altro elemento, perché sennò lo ribocceranno e prima o poi questo sarà un non studente. Allora, la terapia usata per la Grecia ha portato, dati alla mano, a un debito greco che continua ad aumentare nonostante i tagli. Siamo al 170% del PIL, perché il PIL greco è almeno 7% per il quarto anno di fila, e quindi producendo meno, guadagnando meno, cala il PIL, consumando meno, e il debito in rapporto aumenta. E il dato di oggi è devastante. Insomma, i redditi delle famiglie greche nel secondo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, che già era un brutto periodo, sono calati del 15%. Vuol dire che se uno guadagnava 1000 euro, adesso ne guadagna 850. Voi capite che con certi livelli di salario è tantissimo il 15%. E pensate, il calo dei consumi in Grecia, il calo dei consumi. Noi ci lamentiamo perché in Italia abbiamo fatto meno 2, meno 1.8%, meno 3. In Grecia sono almeno 7%. E i sussidi alla previdenza, che dovrebbero fare da effetto così calmiere, sono calati anche quelli del 10%. Voi dite, come mai? Perché le famiglie greche hanno dovuto pagare il 37% in più di tasse nel secondo trimestre del 2012. Il 37% in più di tasse. Io dico, continuiamo così e i greci continueranno a sprofondare e continueremo a salvarli, ci costerà tantissimo. Tasse, produttività. C'è un ascoltatore che dice, no, prima riducono le spese e poi io pago. No, guardi, non funziona così. Pagare le tasse o non pagare le tasse è un reato. In qualunque paese, anche la Germania, che tanto piace ad alcuni, la Francia, la Gran Bretagna, l'America, è un reato e basta. Cioè, non è che lei dice, io inizio a rispettare il semaforo rosso quando realizzate le corsie preferenziali, se no tiro dritto al rosso. Lei paga le tasse e basta. Dopodiché va a votare e chiede e fa pressione perché la pubblica amministrazione riduca gli sprechi. Questo fanno i cittadini in qualunque paese al mondo. Oppure va a votare un candidato che dice ridurrò le tasse perché taglierò completamente le province e le regioni, ridurrò gli stipendi, e poi lo fa. Ma non si può dire io continuo a evadere finché voi non smettete di sprecare. Ma che discorso è? Della produttività parleremo, dell'accordo sulla produttività parleremo più avanti. Il presidente della Repubblica Napolitano ha detto non manchi il contributo della CGIL, e anche il ministro Passera si è detto appunto molto dispiaciuto per l'assenza della CGIL. Arriva invece una protesta forte dalle province, ieri era arrivata dai comuni. Nel 2013 il 70 1% delle province andrà fuori dal patto di stabilità e non riuscirà a dare i servizi necessari a partire dalla scuola e dalla viabilità. Ancora torna sul tema il presidente dell'UPI Antonio Saitta. Tra l'altro l'ha detto oggi di fronte al ministro della funzione pubblica Patroni Griffi. Io continuo a non capire, cioè sicuramente le province avranno difficoltà perché c'è stato un giro di vite, ma perché se si riducono i soldi alle province la prima cosa che si deve ridurre sono i soldi alla scuola e alla viabilità? Chiudete, non pagate più gli affitti, chiudete le sedi, fate qualcos'altro. Abbiamo dimostrato, adesso vi faccio ridare i dati, in un'intera puntata quanta parte delle spese delle province sia dovuta alle scuole e quante, e quindi ai riscaldamenti e a quant'altro, e quanta parte sia dovuta a pagarsi gli stipendi, le consulenze, gli affitti, gli immobili. Ma smettiamola, dite piuttosto senza soldi non ci recheremo più al lavoro, l'immobile resterà chiuso, il riscaldamento resterà spento perché dobbiamo tenere aperte le scuole. Fate così. Non è possibile ogni volta il ricatto sulle scuole di studenti. Ho capito che avete meno soldi, potrete spenderli anche meglio prima. Una buona notizia arriva dal nostro export. Vi ricordate che una settimana fa ci siamo occupati dell'export italiano che aveva subito un brusco calo a settembre. Per fortuna a ottobre c'è un segno positivo, soprattutto sull'export fuori dall'Europa, più 17%. Le importazioni invece solo più 2%. Bene le nostre esportazioni in Russia, più 22% rispetto a un anno fa, rispetto all'ottobre del 2011. In Turchia più 9%, negli Stati Uniti più 19%, nei paesi del petrolio, dell'OPEC più 39%, in Giappone più 31%. Quindi vanno bene le nostre imprese nei mercati ricchi dove c'è ciccia, tranne la Cina, meno 10%, ma la Cina, avendo rallentato, sta acquistando anche meno prodotti forniti dalle imprese italiane. Oh, abbiamo dato una buona notizia, adesso tenetevi forte, il Malox se volete, perché mi tocca parlare della regione Lazio, di nuovo della giunta Polverini, perché insomma, ma anche di altri furbetti del posto fisso. Ieri abbiamo raccontato cosa capitava a Modica, dove hanno controllato 126 dipendenti del comune, 85 timbravano e andavano poi a fare tutt'altro, chi andava nei garage a sentire musica. 105 su 106, insomma l'80% di questi non andava al lavoro. Addirittura c'era uno che hanno beccato che andava la sera a timbrare di nascosto per far finta che avesse fatto lo straordinario. E allora raccontiamo altre amenità della nostra pubblica amministrazione. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, Modica l'abbiamo raccontata ieri, oggi però dalla Sicilia arriva una buona notizia. Perché Crocetta, il neo governatore, ha detto sostanzialmente da oggi l'ufficio stampa, quello famoso dei 21 giornalisti, è revocato. Dal comune di Modica invece oggi a Modica non si parla d'altro che dei 106 rinviati a giudizio su 126 dipendenti. Pensate che a Modica, uno potrebbe pensare che fosse il cioccolato l'industria più importante, no, è proprio il comune, è l'industria che ha più dipendenti. L'organico si è sfoltito, va detto, Pensate che 10 anni fa a Modica aveva un rapporto dipendenti comunali popolazione superiore a quello di Roma, quasi 1000 per 50.000 abitanti, oggi sono scese a 542, ma questo non impedisce ad almeno 100 di loro di non presentarsi al lavoro pur timbrando. Come mai è sceso il rapporto? Cioè, uno dice, erano 1000 o 500, sono tanti o sono pochi? Andiamo a vedere il bilancio del comune di Modica. Perde 57 milioni di euro, 36 fuori dal bilancio perché le hanno ereditati dalle passate amministrazioni. Stipendi erogati a singhiozzo. E un vigile urbano dice che da 10 giorni si muovono a piedi perché non ci sono soldi per le vetture di servizio. Questo in un paese in cui addirittura abbiamo scoperto che c'era una di queste assenteiste, un mito, c'era quello che era entrato nel sistema informatico del comune e cambiava l'orologio per timbrare, così sembrava che fosse arrivato in orario. Un hacker. Ma manco nei film americani, se una cosa del genere. E invece c'era questa donna, c'è questa giovane donna che alle 14:15 del 13 aprile 2010 striscia in uscita ben 5 badge. Che? Okay. Adea Calì? No, è che li strisciava anche per i suoi colleghi. E accanto a lei, tutto filmato dai carabinieri della Guardia di Finanza, un'altra dipendente striscia 3 badge, un altro dipendente 2 badge, quindi in 3 fanno la bellezza di 10 badge e lo facevano tutti i giorni. E allora a questi dipendenti octopus, tentacolari, Dea Calì, il nostro applauso. Abbassare, buttare anche più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, drag e più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Evasori legalizzati, drag e più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Drag e più. Allora, ma i furbetti sappiamo che non sono solo Modica, per carità. A Bari si è chiusa l'indagine sui netturbini, figuravano al lavoro ma erano a casa o in enoteca. Beh, è un modo anche per tenere sui consumi, nell'enoteca. Andavano in enoteca invece che prestare servizio come netturbini. L'AMIO ha licenziato 3 dipendenti, i vigili avevano scoperto 6 netturbini che trascorrevano il tempo a casa in enoteca. Vabbè, il risarcimento chiesto dall'AMIO di Bari, 100.000 euro... diverse irregolarità e assenze non giustificate e per altri la sospensione di 4 giorni. Però voglio dire, cosa sono i netturbini di Bari che vanno in enoteca a bersi il primitivo di Manduria rispetto alla regione Lazio e quello che ha fatto la Polverini prima di lasciare l'incarico? Cioè il 10 ottobre, quando era già dimissionaria, lei e tutti gli assessori hanno compilata la scheda valutativa che i dirigenti delle regioni hanno, una scheda valutativa, solo che quella della non so come raccontarla questa. Allora, è una scheda che devi compilare per dire com'è stato il lavoro tuo. Sapete com'è fatta quella della Regione Lazio? Ha solo voti da 6 in su. È bellissimo, io vorrei una scuola così. Papà, ho preso 6, perché il dirigente può essere valutato come il suo lavoro, come sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo. Questo vuol dire che se va male ti becchi almeno il 75% del premio di produttività. Le trattative erano cominciate prima della crisi della regione, ma insomma tutto questo l'ha concordato Renata Polverini il 10 ottobre in pieno scandalo fiorito, quando eri già dimissionaria, presidente, tu e tutti gli assessori. Ma come si fa? E poi le compensazioni edificatorie, cioè le palazzine di Casal Umbroso nel comune di Roma, le varianti dei piani regolatori di Sutri e Bolzano, tutte cose fatte con giunta decaduta, dimessa, travolta dagli scandali. Atti dovuti, ma che atti dovuti? Hanno cambiato la destinazione d'uso di alcuni immobili. Devo rendere grazie e onore al mitico Sergio Rizzo del Corriere per queste informazioni oggi. Hanno cambiato la destinazione d'uso di alcuni immobili che consentiranno la nascita di centri commerciali. Praticamente hanno messo in piedi pezzi, chiuso pezzi di piano regolatore da decaduti. E poi 27.700.000 tirati fuori per il Cotral, l'azienda di trasporto locale della regione, che ha perso appunto, che è una perdita monstre. Ancora, la cosa interessante è che la Cotral è presieduta da Adriano Palozzi, ex AN, che al tempo stesso è anche il sindaco di Marino, con ben 40.000 abitanti. E lui incassa per l'incombenza aziendale 124.000 euro all'anno. Non so come faccia a fare sia il presidente che il sindaco. Ancora, la Cotral ha, nonostante perda decine di milioni di euro, sta per assumere 3.000, ancora dipendenti, ne ha già 3.500 e 56, ma la giunta Polverini in scadenza è riuscita anche a ricapitalizzare le autostrade per il Lazio, di cui ha il 50%, buttando dentro 375.000 euro. Così il presidente di Autostrade per il Lazio, Luigi Celori, che era fino al 2010 consigliere regionale del PDL, adesso potrà sommare il vitalizio regionale con la carica, mantenendo la carica di Autostrade per il Lazio. Il vitalizio regionale è in Lazio di 5.760 euro netti al mese. Ma tantissime altre cose. La Fondazione Roma Europa, dove siedono anche Renata Polverini, Gianni Letta, Andrea Mondello, ha ricevuto appunto un aiuto, così come 20.000 euro dall'associazione Metamorfosi, anche qui ex deputato di Fondazione Pietro Folena, e 30.000 euro per la settimana degli sport acquatici, dati al senatore PDL Paolo Barrelli, 270.000 euro dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, 18 milioni per le iniziative culturali. Tutti i soldi stanziati da una giunta decaduta, non è che ce l'abbia con gli stanziamenti, ma non puoi farlo quando ormai sei decaduto per lo scandalo, non so, per come gestivi i soldi dei rimborsi elettorali. 300.000 euro per un day hospital di geriatria con 4 posti letto. E vabbè, io dico una cosa, Polverini, non si fa così, ma vale per lei come per qualunque altro presidente. Se sei decaduto per gli scandali e tutto quanto, non toccate il budget. Il sospetto che facciate gli ultimi favori agli ultimi amici è altissimo, è fortissimo, diciamo, resta un sospetto e basta. E qua, quinto potere, Sidri Lumè, l'appello accorato, e poi partiamo con temi più seri, ammesso che questi non lo siano, ahimè. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Spostiamoci infatti a Bruxelles, io non so se chiamarle baruffe chiozzotte, ma insomma qui c'è un'Europa che quando ha un'occasione per litigare ci si tuffa. Abbiamo una posizione britannica che deriva ancora dall'accordo preso dalla Thatcher nell'84, I want my money back, per cui la Gran Bretagna paga meno contributi all'Europa e non vuole accettare la proposta fatta dal Presidente del Consiglio Van Rompuy che il budget europeo sia di 1.010 miliardi di euro in 6 anni. Su questo Cameron oggi ha ribadito: non siamo per niente contenti di questa proposta. Siamo in collegamento con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Beda. Buonasera. Dicevo baruffe chiozzotte, in realtà è solo l'Inghilterra il problema? O l'Italia ieri col ministro Moavero ha minacciato di mettere il veto sul budget se non verrà ridotto il contributo dell'Italia, perché noi avanziamo 5 miliardi tra quello che diamo e quello che riceviamo. Beda. No, credo che tutti i paesi vogliono in questa circostanza difendere i propri interessi. Credo che la stampa internazionale si sia concentrata molto sul caso inglese, probabilmente perché è stato quello più rumoroso negli ultimi tempi. L'Italia ha posto il veto, o comunque ha minacciato di porre il veto se è necessario, ma altri paesi hanno fatto altrettanto. È un momento di crisi economica particolarmente difficile e ci sono fondamentalmente due gruppi di paesi. Ci sono i paesi che vogliono in un modo o nell'altro ridurre il bilancio comunitario perché questo bilancio rifletta meglio l'austerità che vige negli stati nazionali, e l'altro gruppo dei paesi è rappresentato da un certo numero di stati membri che vogliono mantenere il bilancio e soprattutto mantenere i fondi per la coesione e per l'agricoltura. 17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa ha chiuso, New York non ha mai aperto perché oggi è il giorno del ringraziamento, ma la borsa di Milano ha chiuso più 1%, più 0,60 a Parigi, più 0,80 a Francoforte, euro a 1,2870, tra poco ne parliamo. Vorrei però concludere il tema dell'impasse, dello stallo sull'approvazione del budget europeo, che ripeto è fondamentale per settori come l'agricoltura e per tutte le politiche per le aree depresse, visto che i soldi sono appunto europei. Allora, Beda Romano, poco fa Angela Merkel in un'agenzia ha detto forse servirà un altro vertice, siamo d'accordo, mentre Hollande ha detto con la Germania come sempre saremo motore del compromesso. Allora, sto vertice salta, non serve, si arriva al 2013. Ma credo che sia un po' presto per dirlo, perché il vertice potrebbe durare forse più del previsto. Oddio. Perché la fine prevista è domani pomeriggio, ma il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, ha fatto capire che è possibile che possa durare tutto il fine settimana. Non sarei troppo pessimista, mi rendo perfettamente conto che ci sono dei nodi da sciogliere, mi rendo perfettamente conto che la crisi economica complica le cose. Ci sono anche delle elezioni in alcuni paesi europei che potrebbero complicare le cose, ma ho l'impressione che il gabinetto Van Rompuy possa mettere sul tavolo questa sera davanti ai 27 capi di Stato una possibile soluzione o comunque una proposta che può diventare una forma di compromesso. Come dicevo prima, la Gran Bretagna è certamente un problema, ho l'impressione però che il vero problema sia la Francia. La Francia vive un momento di grande difficoltà politica, economica, istituzionale nei confronti del partner tedesco. Sarà difficile per Hollande accettare un taglio troppo drastico e soprattutto troppo visibile dei contributi europei alla politica agricola. Anche perché gli agricoltori francesi sono una potenza anche politica in Francia, insomma la Francia, qualcuno ricorderà quando bloccano il paese, mentre la Germania ha obiettivamente un peso della sua agricoltura molto molto molto inferiore. Devo dire, sì, Beda, apprezzo il tuo cauto ottimismo, la tua speranza, perché questa mattina e nel pomeriggio a guardare le dichiarazioni di tutti i paesi c'era da restare sconfortati. La Finlandia che diceva no, bisogna fare un accordo che vada bene alla Gran Bretagna. E poi l'Austria che diceva non ci può essere l'accordo sul bilancio se ognuno vuole gli sconti e noi perdiamo il nostro sconto. La Svezia che diceva il negoziato sarà molto lungo. L'Italia che ha minacciato il veto se non avrà uno sconto. Insomma, segnalo anche, che non c'entra con i paesi, la lettera molto lunga di tantissimi manager e amministratori delegati italiani oggi su Sole 24 Ore, da Paolo Scaroni a Franco Bernabè, Bozzotti, Rodolfo De Benedetti, perché questo budget europeo possa aprire una nuova fase di sviluppo per l'Europa, essere di stimolo per l'Europa e per le imprese. Allora, Beda, chiudendo su questo appello, c'è una possibilità che questo budget, al di là del valore complessivo, sia ispirato a nuovi principi o alla fine sarà sempre il solito, cioè la quota per l'agricoltura, la quota per le politiche di coesione e via così? No, temo di no, ecco, su questo purtroppo non posso neanche essere cautamente ottimista. Puoi essere solo cautamente. Questo rischia di essere un bilancio fotocopia rispetto agli altri. Era nato con l'obiettivo di rilanciare l'economia europea ed era nato con l'obiettivo di fare delle politiche economiche europee in ambiti diversi come la ricerca, le infrastrutture. Temo che non sarà così, temo che per trovare un accordo si sacrificheranno le poste di bilancio più ambiziose, più innovative, più moderne, privilegiando i vecchi settori. 17:47 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso passiamo alla borsa. Devo dare una risposta però sul ancora ai molti messaggi e commenti su Facebook che arrivano in tema di sprechi della politica, Giunta Lazio, assenteismo a Modica e a Bari. Allora, ci sono un paio di ascoltatori che ciclicamente insistono, non sono sempre gli stessi, ma perché non guardate quello che fanno le regioni di centrosinistra, l'Emilia, e l'abbiamo raccontati i benefit che si attribuivano agli assessori della regione Emilia Romagna, tutti i residenti a Porretta Terme perché così becchi più soldi per la trasferta. E in altre regioni, in Piemonte, l'abbiamo raccontata. Però posso permettermi, senza offendere nessuno, di definire questa visione miope? Cioè qui il problema non è che se ruba l'Emilia, allora se scopriamo che ruba l'Emilia, allora così ruba anche il Lazio, tutti stiamo un po' meglio. No, io sto solo peggio. Cioè a me non interessa che rubi uno del PD, del PDL, mi interessa che vi sia un controllo sui costi delle regioni, in questo caso, che non c'è palesemente, e che il rimborso elettorale non può essere cinque volte le spese sostenute dai singoli partiti. Sono 5 euro per abitante che gli arrivano, per elettore che gli arrivano anche quando non ci sono elezioni, perché è chiaro che poi metti, capito, il ladro di fronte ai polli liberi. Questo mi interessa, che poi la giunta sia di centro-sinistra e centro-destra. Veramente siete miopi e forse anche un po' vecchi nel ragionare così. Non sto meglio io se scopro che anche l'altra regione rubava. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Futuro incerto sicuramente. Le borse invece hanno avuto le idee chiare oggi, forse perché mancava Wall Street e quindi la giornata è stata un po' più lineare del solito. Chiusura in rialzo, più 1% Milano, più 0,60 Parigi, più 0,80 Francoforte, più 0,70 Londra, e allora borsa sia. Come sempre con Radio Cori sulle 24 ore, ciao Condi, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Di negativo Autogrill meno 0,27%, ma passiamo subito con chi è andato bene. Buzzi Unicem, costruzioni più 4,70%. Eh sì, oggi su Buzzi si sono concentrate le promozioni di diverse case d'affari. In generale il mercato comunque si sta tra virgolette accorgendo, insomma, della distribuzione territoriale del business di Buzzi, e gli esperti sottolineano come il gruppo sia particolarmente esposto in Germania, che come noto è la locomotiva europea ed è una delle poche economie che nel terzo trimestre ha mostrato ancora una crescita. Per Buzzi dunque i prossimi 2 anni si prevedono in crescita sul mercato tedesco, ma anche su quello americano, dove il crollo del mercato immobiliare sembra perlomeno allontanato. Gli esperti invece prevedono per i prossimi 2 anni in Italia margini praticamente nulli per Buzzi. Ancora tra rimbalzi, perché così dobbiamo definirlo, Mediaset. Mediaset, abbiamo fatto un'intera puntata con Azzurra Caltagirone, con altri ospiti in precedenza, sui problemi che ha il mondo dell'editoria, dove la pubblicità è in netto calo. Comunque, Mediaset da inizio settembre, da metà settembre, ha perso il 25% fino a venerdì scorso, oggi più 3,90%. È un rimbalzo? Assolutamente sì, direi. Il calo di cui parlavi giustamente tu si era originato sulle attese per la trimestrale che poi si è rivelata addirittura peggio del previsto, quindi in rosso, la prima della storia per il gruppo del Biscione. Poi si erano ancora accumulate perdite dopo la diffusione appunto dei dati di bilancio. Oggi un piccolo rimbalzo favorito anche dal fatto che sono affluiti gli acquisti un po' su tutto il paniere. Ancora Enel Green Power, qui c'è notizia. Sì, si è aggiudicata una gara in Messico per la costruzione di un impianto eolico da oltre 100 megawatt. Come sappiamo, insomma, gli impianti legati alle energie rinnovabili al giorno d'oggi sono particolarmente ambiti per svariati motivi, per agevolazioni di tipo normativo, di tipo fiscale. Nel Green Power è la controllata appunto del colosso energetico Enel, che si occupa appunto di energia rinnovabile, che oggi ha messo a segno questo colpo oltreoceano. Ancora, beh sì, 102 megawatt di eolico non sono male, soprattutto per una gara pubblica in Messico. Oggi si è mossa bene anche tutta la galassia Fiat. Exor, la finanziaria di controllo della famiglia Agnelli, più 2,80%, Fiat Auto più 1,50 e poi mi manca Fiat Industrial, ma mo la becco. Eccola qua, più 1,49 anche se non attaccate. Direi Fiat, ma anche Telecom, perché oggi si riuniva il comitato esecutivo Telecom Italia più 1,5. E tu citavi Exor, anche per Exor comunque è un rimbalzo, ricordiamo che la trimestrale ha registrato un utile in forte calo e il titolo aveva perso parecchio terreno. Per quanto riguarda Fiat Industrial, invece già ieri diciamo sulla nuova proposta per la fusione con CNH, proposta migliorativa nella misura del 25%, il titolo aveva guadagnato terreno sull'ipotesi concreta che appunto il miglioramento dell'offerta potesse finalmente sbloccare l'operazione. Così è stato, perché questa mattina i consiglieri indipendenti di CNH hanno detto sì al nuovo concambio. Fiat Industrial dunque festeggia e guadagna, e secondo gli esperti comunque il miglioramento dell'offerta è diciamo significativo, ma comunque l'extra esborso per Fiat Industrial sarà assorbito dalle sinergie con CNH già nel primo anno di fusione. Per quanto riguarda Telecom Italia, oggi si riuniva il comitato strategico, all'ordine del giorno ci sono insomma i temi caldi del presente, che sono il possibile spin-off della rete, che sembra tuttavia allontanarsi, e il possibile ingresso nel capitale, almeno ha fatto un'offerta, il finanziere Naguib Sawiris. Ancora. Eh sì, e il titolo insomma oggi guadagna più 1,4%. Dunque, le banche bene, ma qui il commento lo faccio io, è molto facile, lo spread si è mosso bene, 3,35, siamo sempre lì. Oggi sulle banche abbiamo visto, non come ieri, però insomma, Popolare Milano più 0,50, Intesa San Paolo più 0,80, Mediobanca più 0,70, Pop Emilia Romagna più 1,12. E poi poco altro vedo. Vorrei chiudere con antichi pellettieri, cioè passare i migliori e i peggiori in assoluto. Più 45% in un giorno. Negli ultimi due sedute ha fatto il 100%, quindi chi ieri avesse scommesso insomma 10 euro sul titolo, oggi l'altro ieri ne avrebbe 20, non è male. Antichi Pellettieri ha sostanzialmente rifinanziato il debito, che era pari a 71 milioni con le banche. Il mercato ha apprezzato questa cosa, perché se non si rifinanziava il debito la società saltava, e quindi insomma è arrivato il maxi rimbalzo. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dopo aver affrontato lo scoglio del nodo europeo sul budget comunitario, tra l'altro c'è una notizia di poco fa che riguarda non l'Europa ma l'Ilva di Taranto, la procura ha detto no al dissequestro degli impianti, adesso occorre che il GIP decida, il gruppo Ilva ieri ha fatto sapere che senza dissequestro si andrà alla chiusura, la notizia di poco fa, dicevo, dopo aver parlato di budget europeo, di Europa, di scandali e sprechi nella nostra pubblica amministrazione, cerchiamo di, da questo punto di vista, tenere tutto quanto assieme con un ragionamento che tocchi anche le notizie, gli elementi principali usciti in questa settimana. Eh sì, cerchiamo di tenere assieme le notizie di oggi e sostanzialmente di questa settimana, quindi l'accordo sulla produttività non firmato dal CGIL in un paese che, come l'Istat ci ha raccontato in questi giorni, ha la produttività sul lavoro ferma da 20 anni, cioè la produttività, costo del lavoro per merce prodotta, chiamatela come volete, è ferma dall'inizio degli anni 90. Ma è anche una settimana in cui l'Europa non riesce a trovare un accordo sulla Grecia, e abbiamo visto che la Grecia aumentare continuamente il suo debito, ormai vola al 170% del PIL, e oggi la notizia che ricordavamo in apertura, il reddito pro capite dei greci che è calato del 15% in un anno. Ma voi immaginate se una famiglia che guadagna 2.000 euro con figli al mese si vede calare il reddito pro capite del 15%. Cioè, passando, diciamo, da 2000 a 1750 euro, non è poco su quei livelli, eh. E anche un'Europa che non riesce a trovare un accordo, lì si andrà per le lunghe sul budget da destinare ai vari paesi, il veto britannico l'abbiamo raccontato, budget importante perché riguarda l'agricoltura di interi paesi, ma anche i fondi di coesione, quelli che devono servire poi per sviluppare le aree più depresse. Per tenere assieme tutto questo utilizziamo il 17° rapporto sull'economia globale e italiana, quello che ogni anno raccontiamo e che presenta il Centro Luigi Einaudi. Quest'anno il rapporto è intitolato sull'asse di equilibrio, come sempre l'ha curato Mario De Aglio, nostro ospite più volte, insegna economia internazionale all'Università di Torino ed è editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera. Quest'anno l'avete chiamato sull'asse di equilibrio, l'anno scorso era la crisi che non passa, potevate usare anche il titolo dell'anno scorso, andava bene uguale, professore. Probabilmente sì, diciamo che questo è uno spiraglio di più lo dà, perché siamo su un asse e se riusciamo a starci sopra ci tireremo fuori. Non mi dica quale asse, professore. Nel 2010 il titolo era La ripresa, il coraggio e la paura, nel 2009 Alla scuola della crisi e via così. Allora, a parte la battuta, diciamo, non edificante mia, ma... cos'è l'asse di equilibrio? È l'equilibrio tra cosa? Tra un double dip, cioè una recessione che si prolunga e invece uno spiraglio di ripresa? E guardi, l'equilibrio come metafora di tutti gli aspetti della nostra vita economica è l'equilibrio dei conti familiari, l'equilibrio dei conti delle imprese, delle banche, degli stati e più generalmente l'equilibrio dei mercati finanziari. In sostanza, se tutta una serie di squilibri che si sono accumulati prima della crisi e sono esplosi dalla crisi dovesse venire attenuato, allora ci troveremo sulla strada giusta. Se invece non li attenuiamo, qualche cosa poi scoppia, cioè vuol dire che uno cade dall'asse. Allora, collegando la vostra analisi, che appunto identifica poi 7 debolezze europee, l'invecchiamento demografico, gli squilibri monetari, i tedeschi ultraortodossi, va bene essere ortodossi, ultraortodossi meno bene, l'euro con il suo vizio di origine politico, le scelte geoeconomiche della Germania, la percezione di un complotto internazionale addirittura, che di dimensione psicanalitica, visto che in tedesco si dice la stessa parola che vuol dire debito, vuol dire anche colpa, pensate un po', no? Ma al di là di queste 7 debolezze europee, quello che è successo negli ultimi giorni sul budget europeo, sul mancato accordo per salvare la Grecia e in casa nostra sulla produttività, dove ci porta in quest'asse? Verso la scivolata o verso invece il proseguimento per la crescita? Direi che ci porta modestamente verso la scivolata. In realtà sono tutte debolezze che conoscevamo, in qualche misura ci aspettavamo, però poi vedercele di nuovo succedere davanti effettivamente è un po' deludente. Noi abbiamo delle riunioni che non concludono e questa è la costante, il filo che lega tra di loro tutta la vita dell'Unione Europea in campo economico degli ultimi 2 anni circa. Per cui scoppia una crisi, si convoca una riunione, si dice che si è raggiunto l'accordo qualche volta, ma comunque non è un accordo non definitivo e il ciclo ricomincia. E questo ciclo si ripercuote poi sui problemi diciamo dei singoli paesi e si ripercuote sui mercati finanziari creando debolezza e caos. Quindi mi sembra un giudizio leggermente, insomma, non pesantemente, ma leggermente negativo. Lei diceva, sono problemi che già conosciamo, però nella vita si cambia anche, professor De Aglio, uno può avere un certo carattere o delle caratteristiche, poi però la situazione esterna ti fa cambiare, significa anche crescere. Mi sembra che lei in questa Europa non la veda crescere tanto, nonostante le sfide e le tensioni, le pressioni che arrivano da fuori. Beh, direi che proprio no. Se tutto va bene abbiamo una crescita striminzita. No, ma crescere come mentalità intendevo anche, non solo come dato economico. Ma come mentalità nel modo più totale. Noi abbiamo quasi un ritorno all'indietro, e cioè ciascun paese si rifugia in un suo universo particolare, e dall'obiettivo di diventare tutti più o meno uguali si va all'obiettivo di conservare invece la propria diversità, quindi cercare un equilibrio tra diversità senza attenuarle. Professore, ci fermiamo un attimo per informazioni sul traffico, poi vorrei capire invece delle sette debolezze europee, quali, alcune le conoscevamo già, l'aspetto demografico, cioè che stiamo invecchiando, vabbè, ça va sans dire, andiamo avanti, gli squilibri monetari, anche questi li conosciamo all'interno dell'Europa, però mi interessa molto un aspetto che voi evidenziate, è quello del, vabbè, i tedeschi ultra ortodossi, ne parliamo ogni giorno, di un eccesso di rigore tedesco che rischia di trasformarsi in rigor mortis, ma la pressione mediatica e la percezione di un complotto internazionale, unito all'aspetto psicanalitico, che mi piace molto, che hanno i tedeschi nei confronti del debito, perché come ricordavamo per loro è la stessa parola che significa anche colpa. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, professor De Aglio, di queste sette debolezze, cos'è la pressione che ha l'Europa? Cos'è la pressione mediatica e percezione di un complotto internazionale? Ma guardi, è una certa regolarità di sequenze che credo tutti gli osservatori dei mercati finanziari devono aver notato nel corso del 2012, per cui durante il weekend capita che normalmente su qualche giornale inglese della domenica viene fuori una notizia che è più o meno uno scoop, che poi si rivela falsa o perlomeno distorta e che è inevitabilmente una notizia antieuropea. Per esempio una famosa che fece andare giù i mercati fu quando si disse che il Fondo Monetario aveva tolto il suo appoggio alla Grecia, cosa che non era vera, aveva semplicemente detto che bisognava rivedere questo accordo dopo tre mesi e naturalmente questo creò uno sfracello in borsa. Insomma, l'idea che ci sia un qualche cosa di una volontà di colpire l'euro deve essere serenamente esaminata. Alla fine di questo esame non arriviamo certo a individuare un colpevole, anzi concludiamo che più che un vero e proprio complotto, c'è, come dire, una mentalità sfavorevole all'euro che si è cresciuta in America, soprattutto nel periodo preelettorale. Entrambi i candidati hanno trovato comodo dare la colpa di tutti i mali all'Europa, dimenticandosi che la crisi è nata in America per squilibri americani, e via discorrendo, cioè c'è stato questo andamento negativo che ha oscurato i grossi deficit americani e il fiscal cliff che adesso ci troviamo davanti. Cioè un dominio anglosassone anche, diciamo, nella comunicazione, a livello, nella percezione. Questo un po' sicuramente c'è. Allora aveva ragione anche Berlusconi o il governo Berlusconi nel dire che c'era un pregiudizio nei confronti dell'Italia, che c'era questo attacco all'euro, partiva anche da una campagna quasi orchestrata, un asse atlantico tra il Financial Times e il Wall Street Journal, per esempio. Sì, io direi che senza andare a pensare a accordi molto dettagliati, diciamo che sono delle sintonie che in qualche modo sono state ricercate e messe in opera. Naturalmente il pretesto in alcune fasi fosse stato l'Italia, ma più spesso sono state la Grecia e la Spagna. Quindi direi che questo va preso in considerazione, perché i nostri mercati non sono perfetti abbiamo degli orientamenti dei mercati che vengono amplificati dai media. Sì, sappiamo che c'è da sempre una prevenzione, un preconcetto nella stampa anglosassone, nella comunità mediatica anglosassone nei confronti dei paesi del Sud Europa, che stranamente conoscono poco, perché in realtà vengono molto a visitarli, ma sempre con una visione un po' così tra la macchietta e il luogo un po' così ameno, ma nulla di più. E da questo punto di vista devo dire che anche il fatto che le agenzie di rating, tranne Fitch, siano di matrice anglosassone, Wall Street americana, non aiuta, a mio avviso, perché poi crea informazione tutta, diciamo, anglofona. Professor De Aglio, è innegabile però che anche noi forniamo molti spunti per restare un po' confinati in questa Europa, vecchia Europa. Lei della Germania e delle baruffe chiozzotte tra i paesi europei, abbiamo già parlato molte volte e sono oggetto di questi giorni, ma insomma lei oggi dice nel rapporto che per l'Italia il periodo 2007-2017 sarà un decennio perso, perché? Perché le previsioni, tutto sommato ragionevoli, che si fanno è che più o meno nel 2017 raggiungeremo il livello di reddito per abitante del 2007. Pensa. E quindi perso proprio in termini fisici. In termini, cioè nel 2017 io produrrò e avrò un reddito identico a quello che avevo nel 2007? Sì. Secondo le previsioni attuali, anche se cominciamo a recuperare, c'è chi dice tra pochi mesi, c'è chi dice tra un anno, anche nella migliore delle ipotesi di un recupero tra pochi mesi, il nostro è un recupero molto lento, perché quella produttività stagnante non è che la togliamo in un giorno, è una cosa che richiederà investimenti pluriennali e oltre alle modifiche delle regole e cose del genere, e quindi ecco che noi siamo su un sentiero molto lento. E infatti nel gruppo dei G7 ci supererà anche il Giappone. Il Giappone per 10-20 anni è stato un paese che cresceva poco, pochissimo. Nel 90-2000, nel periodo 90-2000 noi crescevamo più del Giappone, eravamo sesti, e invece finiremo ben settimi, cioè ultimi, anche nel periodo 2013-2017, dopo esserlo stato nel periodo 2008-2012. Professor Dagli, una provocazione, ma insomma in Giappone non si vive così male, cioè, e se tutto questo eccesso di rigore sui conti, che per carità bisogna ridurre la spesa pubblica, quella improduttiva, non possiamo andare avanti così, bisogna anche portare il deficit a un livello di controllo, ma cioè, in Giappone si è beccato 10 anni e passa di stagnazione economica, debito in aumento, ma insomma non è che restava comunque un'economia forte e con un tenore di vita alto. Perché i giapponesi sono fortemente risparmiatori, quindi non avevano... Anche noi non scherziamo. Lo eravamo, ma diciamo che non hanno poi avuto un tenore di vita con delle punte eclatanti che noi abbiamo avuto, e perché mettono tutti i loro risparmi sostanzialmente su titoli del loro debito pubblico presso l'ufficio postale, e quindi accettano di fatto un debito che nessun altro nel mondo vorrebbe, perché ce n'è troppo, e quindi in realtà dovrebbe valere... Ma non potremmo fare anche noi così? Ma lei pensa veramente che gli italiani accetterebbero, oltre un certo livello, di mettere la grande maggioranza dei loro risparmi in BTP e cose del genere? Ma dipende come va la borsa. Ecco, appunto, mentre invece in Giappone sono due circuiti sostanzialmente diversi. Cioè lo fanno per fedeltà alla nazione, non so. In un certo senso sì, fa parte della loro identità e del loro modo di vivere. Professor Daglio, nel salutarla, arriverà secondo lei una qua i tempi per la ripresa sono sempre più in là. Squinzi dice 2015, il governo dice, la l'Istat e il governo dicono da fine 2013 un po' di ripresina. Ma insomma... qualcosa che possa cambiare questo scenario di lentissimo recupero, non so, di salvifico, un leader politico europeo, una decisione europea, un'elezione europea, chiedo. Credo di no, ci vogliono dei mutamenti, è il motore che sta andando piano. E quindi bisogna potenziare questo motore, bisogna che il meccanico ci lavori. Non è una cosa, non basta l'elemento salvifico di quello che schiaccia sull'acceleratore e la macchina va avanti, che bisogna che il motore risponda bene. E quindi c'è tutto questo lavoro da fare, e penso che una legislatura sia un buon orizzonte per impostarlo e cominciare a vedere qualche frutto. 4 anni, quindi grande responsabilità per il prossimo governo italiano e anche per quello tedesco, visto che pure loro vanno ad elezioni. Grazie a Mario Deaglio, curatore anche quest'anno del 17° rapporto sull'economia globale e italiana del Centro Luigi Einaudi. Grazie a tutti voi. Se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Goodbye, non mancheria. E siamo in conclusione del programma. C'è chi dice: attenzione, anche in italiano, come in tedesco, debito significa colpa. Mi sento in debito verso qualcuno. Adesso non possiamo aprire una parentesi etimologica, ma o semantica, ma non è esattamente così. Io ho un debito verso qualcuno in italiano non vuol dire che ho una colpa verso qualcuno, che okay, qualcuno mi ha fatto un favore che devo restituire. Infatti noi di favore dobbiamo restituirne tanti, tedeschi che vivono il debito come una colpa. Meno, io non so quale poi sia il vero senso di colpa che caratterizzi questo paese, ma non è sicuramente oggetto di questo programma. Sulla produttività invece, domani faremo un approfondimento, perché insomma, le dichiarazioni le abbiamo lette e quant'altro, per capire tutti i punti salienti con diversi esperti e capire che cosa cambia per il mondo del lavoro. Mi riferisco all'accordo firmato tra le parti sociali e quasi tutti i sindacati, tranne la CGIL, proprio sulla produttività. Per ora è veramente tutto. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Berisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.